Maestro, grazie per le tue sofferenze patite per noi, perché siamo preziosi agli occhi tuoi. Ecco i tuoi figli che chiedono la guarigione e il rinnovamento della fede. Fa che possiamo diventare portatori del tuo amore, testimoni del tuo amore. Libera il nostro cuore da tutto ciò che non è amore. L'Apostolo Tommaso ha detto: Mio Signore e mio Dio. San Francesco d'Assisi, in lacrime, ti ha detto: Tu sei il mio Dio, il mio tutto. Gesù, anche noi oggi vogliamo dirti: Tu sei il mio tutto. Gesù, avvicinaci a te, al tuo cuore trafitto. Vogliamo essere tuoi testimoni. Questo è il nostro desiderio e la nostra preghiera. Signore nostro, Dio nostro, ecco i tuoi figli che hai radunato qui oggi per educarli all'amore. Benedici ognuno di noi. Ti ringraziamo per questa Via Crucis, per questa scuola dell'amore. Secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Nel Nel nome nome del del Padre, Padre, e del del Figlio, Figlio, e e dello dello Spirito Spirito Santo. Santo. Amen. Amen.